Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Magno cum gaudio ecce vobis, valetudo, id quod spectamus. Odia sum me con Dominus Andrea Vitali e Silvia Stucchi. Buongiorno, come sono andata? Giro subito la domanda a Silvia Stucchi che è in linea con noi. Ciao Silvia. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, è andata benissimo, 30 e lode direi. Ecco, declinazioni perfette. Ecco, è dato da Silvia Stucchi che insegna letteratura latina all'Università Cattolica di Milano. Beh, un 30 lode molto meritato, Silvia. Grazie. Allora, perché siamo qui? E perché ho chiesto aiuto a Silvia, mi sono imparata quasi a memoria questo intro, perché oggi vogliamo parlare di latino. Come il latino ci salva la vita? È proprio il titolo dell'ultimo saggio di Silvia Stucchi, che pare un po' uno sberleffo. Più che salvare la vita, Silvia, molti studenti il latino l'ha amareggiata, per non dire rovinata. Diciamo che anche alle famiglie probabilmente in questo tempo in cui di lockdown o di serrata hanno dovuto provvedere in autonomo anche ai compiti dei figli senza ripetizioni, quindi credo che non abbia prodotto ottimi sogni. Però è anche vero che io racconto sempre un aneddoto. Una volta è una lezione anche tarda al pomeriggio, perché le lezioni di latino per soffrire meglio ce le mettono alle 5 del pomeriggio nel crepuscolo milanese, e avevo un gran mal di testa. Dopo due ore a me il mal di testa era passato. Non so se fosse venuto agli studenti, ma che cosa produce secondo me l'effetto benessere del latino? Sta nel fatto che non solo c'è il piacere di sapere chi noi siamo, mi mette una certa perplessità il fatto che la medicina sempre più sta realizzando come la genetica è la base di tutte le terapie, la conoscenza di che cosa siamo ab origine è fondamentale, ma noi, se possiamo, dalle nostre origini, intese come conoscenza storica linguistica, scappiamo. Però chi non sa da dove viene difficilmente sa con cognizione dove andare. Ma poi soprattutto, se posso dire, secondo me il latino ha un effetto benefico, nel senso che noi tutti facciamo delle giornate terribili, tanto presi da incombenze che sono assolutamente necessarie, che non vanno fatte subito, prima. Siamo sempre in ritardo, sempre affannati per cose così urgenti che il giorno dopo abbiamo già dimenticato. E forse fermarci un pochettino, una lettura di qualche cosa che non sia qualche cosa di effimero, che non sia rapportabile immediatamente alle esigenze immediate, dall'oggi al domani, da adesso a due ore, da stamattina alla riunione di oggi pomeriggio, potrebbe semplificarci o salvarci la vita. Come anticipato in apertura nel mio intro in latino, in linea con noi c'è Andrea Vitali, che ha ascoltato in silenzio. Andrea. Sì, buongiorno a tutti, ciao a tutti, in religioso silenzio. Devo dire che vero è che magari il titolo del libro sembra uno sberleffo, però siccome io mi assumo la parte sciocca di questa chiacchierata. No, scusa, qua fermiamoci subito, perché io ho detto, ho guardato il libro, ci sono andata a sbirciare dentro, chiedo aiuto ad Andrea Vitali che faccia un po' la colonna, è un dutour, è uno scrittore, io me ne vado, Sì. No, ma volevo giustificare invece che è assolutamente vero quel titolo, peraltro applicato a un libro serissimo, pieno di rimandi estremamente interessanti, perché mi ha ricordato una gustosissima scenetta di un film tratto dalla saga di Giovannino Guareschi, Don Camillo e Peppone, laddove ci sono questi due giovani innamorati che appartengono però a due famiglie nemiche, che si vogliono sposare clandestinamente, una sorta di promessi sposi in riva al Po. Don Camillo si rifiuta e loro minacciano di togliersi la vita buttandosi nel fiume. L'intervento di Peppone è salvifico, perché prende Don Camillo e gli dice: bastava un oremus per salvare la vita loro. E poi naturalmente finalmente partono le squadre di soccorso, i due giovani vengono trovati per tempo e il matrimonio si farà. Però vedi che il latino anche in questo caso avrebbe salvato la vita ai due giovani, come di fatto poi non accade, perché non si buttano nel fiume. Silvia, anche Andrea che è qui con noi, cioè, tu hai pubblicato un saggio e Andrea il suo ultimo romanzo Un uomo in mutande, e qua bisogna tradurlo. Direi De viro cum subligaculo potrebbe andare. Andre, ti piace? Sì, mi piace, c'è anche questo, come dire, questo suono un pelino equivoco nella parte nel subligaculo finale. No, benissimo, ecco, dovessero tradurlo in latino abbiamo già il titolo. Vedi? Chissà mai, perché in latino ci sono tanti motivi, Silvia lo racconta bene nel suo saggio, per cui la conoscenza del latino è un fattore che può accrescere la nostra qualità di vita. Ad esempio il latino insegna non solo la precisione lessicale, il culto dell'esattezza, ma ci insegna il problem solving. Silvia, in che senso? Nel senso che quella procedura di analisi di un problema, oggi appunto chiamata problem solving perché l'inglese è adesso quello che è stato il latino per secoli per l'Europa, banalmente, come faceva notare il mio professore di lingua latina, Nicola Flocchini, che credo abbia angosciato e anche dilettato le ore di studio di tantissimi studenti, perché è autore di grammatica. Sì, non si dimenticano facilmente i prof di latino e di greco. Non si dimenticano, perché poi lui è stato veramente un grande didatta, però faceva notare, ed è vero, come il meccanismo di analisi dei dati, formulazione dell'ipotesi, verifica dell'ipotesi e eventualmente ritorno a formulare una nuova ipotesi di lavoro è il meccanismo che usiamo per la versione di latino. Un mio collega di università poi ha lasciato gli studi classici, si dedica alla regia e dice che due cose mi sono state utilissime per imparare come muovere la macchina da presa: l'ablativo assoluto e Kant. Andrea, qua devi intervenire tu con l'ablativo assoluto e Kant, ti ripasso la palla. A me viene in mente un fatto della mia carriera liceale relativamente proprio al risolvere i problemi. In un'occasione in cui io copiai integralmente una versione di greco dal mio compagno di banco, il risultato alla riconsegna del testo fu che lui prese 4 più e io presi 4 meno. Ora, no, ancora oggi non ho capito quel più a lui e quel meno a me, in che cosa si differenziassero le due versioni, ma una cosa capimmo allora, insomma, che io non potevo fidarmi della sua incapacità di risolvere il problema della versione e avrei dovuto metterci la testa di mio. Quindi è verissimo che questa procedura, diciamo, quasi anamnestica, che puoi applicare tranquillamente alla medicina, come diceva la professoressa prima, la impari anche applicando, diciamo, la soluzione di una versione di latino o di greco. Del resto i medici vengono da sempre da studi classici molto spesso e questi credo che aiutino, no? Ti hanno aiutato, Andrea? Indubbiamente sì, mi ricordo con molta angoscia ad esempio la ricerca del nominativo in queste frasi latine a volte contorte, ricerca che doveva portare, diciamo, a un inizio per cominciare a capire, diciamo, quello che avevi sotto gli occhi e il senso poi da riportare in lingua corrente, in lingua italiana. Però è un esercizio mentale che si può applicare ovunque, io lo applico anche nello scrivere le mie storielle, non c'è niente da fare, questo tipo di educazione ti resta comunque attaccata, ed è un'educazione, un atteggiamento estremamente utile in molti campi dell'agire umano. Silvia, nel tuo saggio hai dedicato un capitolo molto preciso in cui parli del benessere legato anche all'aspetto fisico, perché i romani, insomma, la sapevano lunga. Ed erano attentissimi, è un capitolo che si intitola Se sei bruttina, Ovidio ti aiuta anche senza il ritocchino, perché i romani avevano prima di tutto un canone molto preciso per la bellezza fisica femminile e maschile. Per quella femminile al di là della mancanza di abbronzatura, quindi della pelle candida come elemento di bellezza, quindi loro se ne fregavano della carenza di vitamina D, per esempio loro amavano i capelli biondi, ma l'occhio scuro, l'occhio azzurro viene citato da Lucrezio come al verde azzurro un possibile difetto fisico addirittura. Però ci sono anche delle creme, dei cosmetici di cui Ovidio ci conserva la ricetta, io ne riporto un paio e devo dire che leggendo queste ricette, insomma, neanche a pagamento vorremmo essere nei panni di una matrona romana pur abbiente che si spalma certe misture di salnitro sulla pelle e quindi rivalutiamo sicuramente la nostra scelta a costi e con ingredienti, insomma, un po' più gentili. Andrea, ma il tuo uomo in mutande è bello, sallatino, insomma, in qualche modo possiamo svelarlo un po'? Sì, direi, è un bell'uomo, ma è sciocco, assolutamente sciocco e sicuramente non ha mai letto un libro in vita sua e men che meno un classico. È così, però vive felice ugualmente. Oddio, così come può vivere felice un uomo che scappa di notte in mutande. E il mistero si infittisce. Grazie a Silvia Stucchi per essere stato con noi. Ricordo il titolo del suo saggio, Come il latino ci salva la vita, e ringrazio l'amico Andrea Vitali con De Viro cum Subliculo. Grazie a voi. Tradotto un uomo in mutande. Ormai il latino non ha più segreti, finalmente. Buona giornata da Nicoletta, vi aspetto dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.